Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1, nessuno, 100.000. In studio, Geppetto, Milan, Maria, Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti, Leonardo Manera. In regia, il gatto, Peter Pescapè. In redazione, la volpe, Lorenzino Nespoli, la fatina, Elisabetta Fusconi e il grillo parlante, Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Uno, nessuno, 100.000 in questo 8 dicembre. Una puntata un po' particolare perché vi vogliamo raccontare alcune delle storie che abbiamo seguito maggiormente in questi mesi. E vogliamo iniziare questa puntata con l'intervista a padre Pierluigi Maccalli. È un missionario della Società delle Missioni Africane, originario di Madignano, in provincia di Crema, che fu rapito dai miliziani jihadisti in Niger nella notte tra il 17 e il 18 settembre del 2018. Poi è stato rilasciato, fortunatamente, l'8 ottobre scorso, dopo 752 giorni di prigionia. Pierluigi Maccalli, l'uomo buono, il missionario della Società delle Missioni Africane, è stato sequestrato ieri in Niger, nella parrocchia di Bomoanga, a 125 chilometri dalla capitale Niamey, quasi alla frontiera con il Burkina Faso. La notte scorsa, alle 21 circa, alcune moto, sembra 8, hanno bussato alla porta della missione e lo hanno preso e portato via. Le campane suonano a festa, padre Luigi Maccalli è libero. A Madignano, il suo paese, nelle campagne sulla strada per Crema, la notizia ha fatto il giro di case e bar in un attimo. Io stamattina quando ho visto la notizia ho pianto dalla felicità, naturalmente. Un momento di gioia per padre Pierluigi Maccalli, rientrato ieri nella sua Madignano dopo il rapimento in Niger nel 2018 da parte di un gruppo jihadista e i 752 giorni di prigionia terminati con la liberazione in mano. Padre Gigi Maccalli, buongiorno e grazie di essere qui. 752 giorni di prigionia. Il concetto di libertà, lei ci aveva mai pensato così profondamente prima di quel 17 settembre 2018? La libertà la si apprezza quando la si è perduta. E quindi adesso ha uno spessore nuovo, diverso rispetto a come forse prima l'utilizzavo nel mio vocabolario quotidiano. Oggi la libertà per lei cosa significa? Ce lo può far capire? La libertà è potermi muovere, poter camminare, poter andare dove desidero senza dover chiedere a un mujahideen che devo spostarmi per fare un bisogno fisiologico, essere capace adesso di gestire i miei movimenti, i miei desideri di spostamento senza dover dipendere da un altro. Padre Gigi Macalli è un missionario della Società delle Missioni Africane. Anche suo fratello è missionario in Liberia. Insomma, ce l'avete un po' in famiglia questa fede, evidentemente, no? E questa vocazione? L'abbiamo bevuta col latte materno, penso, dai nostri genitori. Oltre a Walter c'è anche mia sorella, mio fratello minore, entrambi sposati, e anche loro persone di fede. Senta, 752 giorni, sono più di 2 anni, lei è stato liberato anche con Nicola Chiacchio, voglio ricordare, altro italiano che era con lei. Lei ha raccontato che spesso eravate legati proprio in catene. C'è stato un momento più degli altri in cui ha temuto per la sua vita, si è chiesto: ma questi cosa vogliono da noi? Il primo giorno che mi hanno incatenato, non lo dimenticherò, era il 5 ottobre 2018, e per 22 giorni sono rimasto incatenato a un albero giorno e notte. Poi mi hanno portato nel profondo deserto del Sahara, tra le dune di sabbia, e il Sahara è stato la mia prigione. Lì non avevo le catene, potevo muovermi, ma era anche impossibile andare molto lontano perché il calore è talmente forte, e queste dune a perdita d'occhio sconsigliano qualsiasi ipotesi di fuga. Poi l'ultimo anno siamo stati ancora incatenati, ma solo di notte, dal tramonto all'alba. Ecco, sono stati momenti duri, perché anche solo dormire con le catene ai piedi non è certo simpatico. Eh no, ma è terribile. Poi lei dice l'ultimo anno, a un certo punto forse uno si rende conto che quella rischia di diventare un po' la propria vita, e chissà per quanto, senza una data di scadenza, senza una data finale. Quello che più mi pesava era proprio non sapere fino a quando. Giorno dopo giorno la stessa monotonia che si ripeteva, e non hai mai una prospettiva, una data. Ecco, mi chiedevo più volte: sarò già arrivato a metà? Quindi ogni giorno ne passa uno e si avviciniamo all'uscita, ma ogni giorno era uguale all'altro, e anche l'ultima settimana non sapevamo che erano gli ultimi giorni, quindi certo. giorno dopo giorno. Come l'avete capito, ecco, padre Gigi Macalli, come ha capito lei che a un certo punto stava per finire tutto? Vengono dati dei segnali, il linguaggio del corpo forse dei suoi rapitori? No, c'è stato qualcosa di più. Già l'11 settembre scorso ci hanno fatto un ultimo video, e questo mujahideen, un capo, ci aveva detto: ho sentito che sarete liberati assieme alle donne e assieme al politico maliano, che era anche lui detenuto da circa 6 mesi. E quindi, quando la domenica, credo fosse il 4 ottobre, abbiamo sentito dalla radiolina che ci avevano dato da qualche mese che erano stati liberati dei prigionieri dalle prigioni di Bamako, dei prigionieri jihadisti, dicevano, come prezzo di scambio per gli ostaggi, abbiamo teso l'orecchio nel cercare di percepire se c'era un rumore di macchina che arrivasse verso di noi e fossimo anche noi nel pacchetto ostaggi di cui si parlava in questa radio. Lunedì è passato, martedì 6 ottobre abbiamo sentito una macchina verso le 10 del mattino, e quando il mujahideen che ci custodiva si è avvicinato al finestrino, subito si è girato verso di noi e ci ha detto: Safar, Safar, vuol dire viaggio, viaggio, smontate tutto, si parte. E così è cominciato questo viaggio. Ho detto: speriamo che sia quella la volta buona, il viaggio verso la libertà. Senta, lei dei suoi rapitori ha parlato in qualche breve intervista. Una volta li ha definiti degli zeloti musulmani o degli indottrinati, per i quali non prova molto rancore ma più pena, se ho capito bene. Cioè loro volevano convertirla perché lei era l'infedele, l'impuro, il non musulmano. Molta tristezza mi facevano, perché giovani come ho affermato, indottrinati da questi video di propaganda che avevano sempre tra le mani, perché il kit penso che danno al mujahideen che viene arruolato è quello di dargli uno smartphone, un fucile Kalashnikov e una moto. Quindi con questo kit loro sono arruolati. Quindi questo smartphone, che non ha rete perché in quelle zone non c'è rete, ma è pieno di questi video che loro lungo tutto il giorno si guardano e si compiacciono. Quindi sono un po' schiavi da questa propaganda che certamente, ecco, influisce sul loro agire. Ma mi faceva molto tristezza, perché ho sempre lavorato molto per la gioventù in Africa come forza del domani, di un'Africa nuova, diversa, e vedere questi giovani così, tra virgolette, sprecare la loro vita per un fucile, per un'azione. Sì, diciamo, loro pensavano di fare qualcosa di grande per Allah, per questo dicevo zeloti, cioè molto zelanti in questa loro fede, ma secondo me molto condizionata da quanto gli ha messo in testa, ecco. Quindi molta tristezza. Però se ho capito bene... Mai rancore. Certo, no, rancore no. Se ho capito bene, lei qualche crisi l'ha avuta, nel senso che in quel momento, quando uno si sente proprio abbandonato, si sente anche abbandonato da Dio, che detto da lei forse fa ancora più effetto, o sbaglio? Molto sconforto, sì, anche... il grande silenzio attorno a me e dentro di me, ho detto anche in il silenzio di Dio, ma con la convinzione profondamente interiore che Dio c'è e che comunque ascoltava il mio grido, che mettevo nel grido di Gesù in croce: Padre, perché mi hai abbandonato? Non è un grido di sconforto, ma è un grido che nasce dal profondo di un dolore che uno porta dentro e grida a questa realtà che pure sente essere l'unica che può comunque ascoltarla. Non ha mai avuto dubbi sulla conversione, però lei, anche di facciata, guardi, glielo dico così, anche per dire magari questo mi permetterà di essere trattato un po' meglio. No, alcuni ostaggi hanno fatto questa opzione di convenienza, come dici, ma sinceramente non mi sono mai sentito attratto. Ho letto il Corano che ci hanno dato, l'ho letto per due volte, la prima con velocità, la seconda con più attenzione, ma sinceramente non ho trovato che potesse nutrire la mia vita di fede, qualcosa che mi desse, che io non avessi. Ecco, io la misura alta del Vangelo non l'ho trovata, ecco, nella lettura del Corano che ho fatto, quando Gesù dice non giudicate, ecco lì invece ero costantemente, ogni giorno, giudicato per essere un kafir, un miscredente, un infedele, e quindi dicevo no, per me non è questo il Dio che cerco. La misura alta del ama il tuo nemico, lì invece il nemico è da eliminare, da uccidere, ecco. Quindi questo non mi favoriva, non mi portava a aderire a un qualcosa che mi tirava più in basso, più che tirarmi in alto. Senta, ovviamente padre Gigi Macalli, lei è stato rapito nel 2018, 17-18 settembre, è tornato nel mondo con noi a ottobre di quest'anno. C'è stata in mezzo una cosa che si chiama Covid, ne ha sentito parlare, ne sentiva parlare, è interessante anche questo, cioè lei ha lasciato un mondo, l'hanno privata della libertà, e di questo Covid nessuno sapeva nulla, e quando è tornato c'era il Covid, e nel frattempo le arrivava qualche notizia di questo Covid. Già ce ne aveva parlato Abu Nazer, questo responsabile che ci faceva visita media ogni mese, ogni due mesi, e ci diceva: c'è questa notizia nel mondo, c'è questo virus che sta imperversando in Europa, in America. E quindi avevamo avuto queste notizie. Poi quando ci ha portato una radiolina e abbiamo potuto ascoltare ogni giorno le notizie, allora lì ci siamo un po' più documentati su questa pandemia, ma sinceramente non pensavo fosse così al quotidiano come l'ho trovata quando sono rientrato in Italia, e cambia davvero programmi, modi di fare, questa mascherina continuamente sul volto quando si esce e che io ogni tanto dimentico, ecco, è un'altra dimensione. Un'altra dimensione. Sa che c'è un ascoltatore che ci segue molto spesso, ci dice, si firma sempre Max da Crema, dice: da oggi mi firmerò Max da Madignano, che è il paese di padre Gigi Macalli, perché e manda un abbraccio a padre Gigi. Padre Gigi, conosce, ha sentito parlare di Silvia Romano, no? Un'altra sequestrata che è stata in Somalia. E lei per esempio si è convertita, per carità, non le chiedo un giudizio, queste sono scelte, come dire, però certo. Lei un accenno l'ha fatto, ha detto: io, a differenza di altri, non ci ha spiegato bene perché non ha mai preso in considerazione la conversione. Si sentirebbe di giudicare come un errore chi lo fa per salvare la propria vita, anche magari. Intanto la notizia di Silvia l'abbiamo avuto proprio da uno dei nostri carcerieri, che il giorno stesso ci ha dato la radio, ricordo il 20 maggio, ci aveva anche comunicato che una settimana prima era stata liberata una donna italiana. E noi abbiamo anche calcolato, perché Nicola Chiacchio, essendo stato rapito dopo di lei, sapeva di questo rapimento, che collocavamo appunto a novembre del 2018, quindi era un anno e mezzo, 18 mesi, e abbiamo calcolato, ecco, forse i 18 mesi sono il tempo necessario perché una negoziazione si faccia e si arrivi a una conclusione. Quindi speravamo, che io avevo già passati questi 18 mesi, Nicola invece si avvicinava, ecco, forse, ecco, aspettano anche il mio 18° mese, poi saremo un po' considerati, ecco, liberati, ecco. Quindi ci aveva dato anche speranza questa notizia. È solo dopo, quando sono tornato, che leggendo dai giornali ho visto, ecco, anche di questa scelta che lei ha fatto. E come dico, non mi stupisce in sé, perché in situazioni così estreme nel quale siamo passati, ecco, la pressione psicologica è forte, l'ho avuta su di me, e quindi posso dirlo in prima persona. E poi, ecco, ciò che una persona decide appartiene a lei, quindi lei saprà perché ha fatto questa scelta. Ecco, io posso parlare dei miei compagni che, come dicevo, l'hanno fatto per convenienza, solo per tirare qualche vantaggio e sperare di non arrivare all'estremo. L'estremo cos'è? Un musulmano non ucciderà mai un altro musulmano, soprattutto indifeso, perché sarebbe condannato direttamente all'inferno. Quindi essere considerato fratello musulmano ti previene da questa eventualità estrema. Padre Gigi, io la ringrazio molto, so che dovrà meditare molto sul futuro, qualcuno gli ha chiesto: ma tornerà a fare il missionario? Forse anche questa situazione, ed è comprensibile, l'avrà messa un po' in crisi. In fondo il missionario va lì per aiutare e si è trovato sequestrato. No, ti posso correggere, farà ancora il missionario, non è nelle mie orizzonti, perché io sono missionario. E lo sono per tutta la vita, certo. Sarò sempre missionario, in qualsiasi parte del mondo sarò inviato, e questo non cambia il mio orizzonte futuro. La destinazione poi concreta, quello dipenderà da tanti fattori. Comunque la prima cosa che io così porto nel cuore che sono tornato in famiglia, ma non sono tornato ancora a casa, tra la mia gente, dove io sono stato strappato in maniera violenta e mi stanno aspettando almeno per un saluto. Questo è un dovere di doverlo fare. Sì. So che hanno danzato il giorno della mia liberazione in chiesa e io devo andare a danzare con loro innanzitutto. Padre Maccalli, la ringrazio per la sua preziosa testimonianza, davvero un piacere averla ai nostri microfoni. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria ed entriamo subito dopo. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, dal lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. Uno, nessuno, 100 Milan. Basta metallari! Rock duro! Leonardo, rieccoci al meglio di Uno Nessuno 100 Milan. Ora torniamo a occuparci del mondo dei rider. In particolare lo facciamo con una sentenza del Tribunale di Palermo, sentenza di primo grado, che riguarda i ciclofattorini e che è stata definita in qualche modo storica. Saluto il protagonista di questa vicenda, si chiama Marco Tuttolomondo. Buongiorno Marco e grazie di essere qui. Buongiorno a voi tutti e grazie a voi. Così come saluto il suo avvocato Giorgia Lo Monaco. Avvocato, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti. Esperta, grazie. Di diritto del lavoro. Allora, Marco, Tuttolomondo fa quello che viene definito con un termine in inglese rider, che poi non si è mai capito bene perché fattorino non va bene. Non so, come Marco Tuttolomondo, qual è il termine che predilige? Rider va bene? Ma sì, anche se io sono per la lingua più italiana, quindi direi corriere, però va bene anche rider. Corriere. Allora, tutti sì. Raccontano la storia, è il primo, insomma, comunque dovrà essere assunto a tempo indeterminato da sì. Glovo. Glovo è una delle piattaforme, sì. Insomma. Questo nasce da quando, Tuttolomondo? Da quando lei ha deciso di fare causa, evidentemente. Sì, dal lontano 4 marzo 2020, diciamo, sì. Cioè, cosa è successo? È successo che sono stato disconnesso dall'applicazione, quindi dalla possibilità di poter prenotare le ore per poter proseguire a lavorare come facevo dal 5 ottobre del 2018. Cioè, disconnesso, cioè sul telefonino a un certo punto uno vede che non è più nella rete, ecco, nella rete di coloro che possono lavorare. Sì, praticamente neanche si apriva l'applicazione, che ha varie pagine sulle quali si può operare, quindi giorno dopo giorno cercavo di aprire, ma questa applicazione era praticamente morta. E per questo si è rivolto a Giorgio Lomonaco. Ha capito, avvocato, qual è, in estrema sintesi, qual è il motivo per cui c'era stata questa disconnessione e il motivo per cui poi avete vinto la causa, di fatto? Beh, il motivo per cui abbiamo vinto la causa è perché intanto è stato riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato del signor Tuttolomondo alle dipendenze di questa multinazionale Glovo, quindi di questa piattaforma di food delivery. In più il giudice ha deciso, ha ritenuto, come fra l'altro gli avevamo appunto spiegato noi col nostro ricorso, che la disconnessione doveva essere equiparata a un vero e proprio licenziamento. Perché c'è, esatto, disconnettere in quel momento era considerato come ti licenzio. Questo è un'interruzione del rapporto di lavoro. Più che altro non soltanto la disconnessione in sé per sé, ma la mancata riconnessione successiva, dopo che il Tuttolomondo aveva chiesto di essere riconnesso perché aveva messo in atto la procedura che consentiva di versare, insomma, il suo contante guadagnato durante il giorno. E attraverso questa procedura, attraverso quindi tutto questo processo, l'account solitamente si riconnetteva. Sì, qui c'è il grande tema che riguarda non solo tutto lo mondo, ma riguarda tutto questo mondo dei rider o dei corrieri, cioè che tipo di rapporto di lavoro ci sia per queste persone. E appunto questa sentenza è molto importante, perché ha dichiarato per la prima volta in Italia che tra un rider e in questo caso il signor tutto lo mondo e la multinazionale Glovo sia effettivamente intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, a tempo pieno e indeterminato. A tempo pieno e indeterminato. È indeterminato, sì, assolutamente, perché... con lo svolgimento da parte del signor tutto lo mondo delle mansioni ciclofattorino. È molto interessante, perché noi molti sono abituati a pensare, ecco, tutto lo mondo, come nasce questo suo rapporto di lavoro al di là delle questioni sindacali? Cioè molti sono abituati a pensare, ma sono i cosiddetti lavoretti, che vengono definiti con questo termine, che non è sprezzante, ma per dire quei lavori che si fanno per arrotondare un po' dal punto di vista economico. Lei pensava inizialmente che fosse così, oppure pensava di vivere di questo lavoro? Ma diciamo che al mio rientro da Londra nel 2016, dove facevo l'autista professionale per bambini, accompagnavo bambini a scuola la mattina e li andavo a prendere il pomeriggio, rientro a Palermo e in una situazione di tessuto sociale, di disoccupazione un po', io direi, grave, preoccupante, riprendo, come avevo fatto qualche anno prima, a portare il pollo e la pizza a casa dei cittadini palermitani. Poi un giorno un mio collega mi dice che aveva iniziato a lavorare con Glovo e mi dice, sai, oggi ho guadagnato 40 euro, l'indomani mi dice, sai, oggi ho fatturato 60 euro, quindi cerco di spostarmi su possibilità di guadagno più carine che diciamo che sono un 10 o 20 euro al giorno. E quindi inizio questo rapporto di lavoro con Glovo, con io ritengo una certa professionalità, con gentilezza, educazione, sì, sapersi comportare, saper parlare e rispettare sia gli esercenti che il cliente finale. Ma alla fine questa, quindi l'idea di avere un lavoro, ma questa disconnessione cosa significa? Cioè, come mai l'hanno disconnessa? Non lo so come funziona proprio. Diciamo che io appunto, come quasi ogni giorno, mandavo un bonifico del saldo alla mano, che non è altro che il contante che a ogni ordine un corriere su Glovo, in Italia per capirci, riceve dal quando consegna il prodotto al cliente. Chiaramente se il cliente in quel caso ha pagato con contante, perché se ha pagato con carta di credito, insomma, non in carta in quel momento. Siccome erano successi dei precedenti su Palermo che dei colleghi avevano trattenuto delle somme, la piattaforma decide di mettere un limite, e quindi noi per esempio quando arrivavamo a 500 euro, che poi fu scalato a 200 euro, dovevamo versare questo contante tramite il bonifico per evitare di essere bloccati. Chiaramente uno poteva rimanere bloccato un giorno, due giorni, una settimana, e dopo che tu facevi questo bonifico e mandavi le fotografie e quant'altro, cioè, telematiche, perché era un po' come dire, se non ti blocco c'è il rischio che uno si tenga i soldi, se li rubi. Sì. Sì. Okay, quindi... E quindi io in quel giorno, come altri una decina di colleghi, in quel 4 marzo, feci questo bonifico e tutti i miei colleghi, diciamo, furono riattivati. E lei no. Ma, e lei no. E io no, sì. Avvocato, sì. È davvero una sentenza storica, spesso si usa questa frase, sentenza storica, ma è davvero un qualcosa che è sentenza senza precedenti, che può cambiare questo, perché ne abbiamo sentite già di altre sentenze e sono state tutte presentate così, questa sentenza può cambiare per il futuro? Abbiamo la sentenza sicuramente la Corte di Cassazione del caso Fudora, che aveva deciso in questo caso, sì, per la eterorganizzazione, esatto, dei lavoratori. Questa è chiaramente una sentenza che va oltre. Siamo in un primo grado, quindi deve essere assolutamente, poi questo indirizzo si deve confermare anche negli altri, immagino, gradi di giudizio. Però io volevo precisare anche, dico, non possiamo prescindere, come lei ha detto prima, da quello che è stato l'intervento del sindacato, perché dobbiamo dire che il signor Tuttolomondo è un lavoratore iscritto alla NIDIL CGIL, che ha portato avanti precedentemente all'instaurazione di questo giudizio tutta una serie di battaglie, e il Tuttolomondo si è fatto portavoce anche di queste battaglie. Quindi diciamo, la disconnessione che comunque il giudice in questa sentenza, ora lo possiamo dire perché abbiamo le motivazioni, l'ha a questo punto qualificata come un vero e proprio licenziamento ritorsivo, perché comunque il signor Tuttolomondo, che appunto è stato il portavoce di numerose battaglie e vertenze sindacali, era un lavoratore particolarmente, diciamo, possiamo dire anche abbastanza scomodo, che pretendeva e rivendicava una i serie di tutele, e quindi a questo punto l'azienda l'ha disconnesso e ha deciso di non riconnetterlo più. Voi in primo grado almeno avete dimostrato che c'era quasi una sorta di ritorsione nei suoi confronti. Avvocato Lo Monaco, noi la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni, così come ringrazio Marco Tuttolomondo. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccoci a Uno, Nessuno, 100 Milan. Leonardo, ora ci dobbiamo occupare di un fenomeno che è dato in costante espansione in alcune aree geografiche italiane, ovvero il proliferare dei lupi, con il conseguente aumento di casi di aggressioni nei confronti di animali da allevamento. Allora, è un tema interessante. Per capirne di più abbiamo chiamato il professor Luigi Boitani, che è ordinario di zoologia alla Sapienza di Roma e considerato uno dei massimi esperti di lupi in Italia. Buongiorno professor Boitani, grazie di essere qui. Buongiorno. Professor Boitani, l'abbiamo chiamata perché da più parti ci sono allevatori, soprattutto nel centro Italia, in Toscana, ma ieri leggevo anche Reinhold Messner nelle sue valli, no, del Trentino Alto Adige, dice: ho delle pecore e qui il problema dei lupi, lo pone così, il problema dei lupi è un problema vero Allora, lei ci spieghi intanto qual è la situazione dei lupi in Italia? È davvero un problema? No, allora, la situazione del lupo la posso raccontare. Se è un problema non lo posso dire, perché questa è una, diciamo così, una riflessione personale di molte persone. Ma ci sono sicuramente i lupi su un areale che è molto più basso di quello di 30-40 anni fa, per esempio. Oggi il lupo si è riguadagnato tutto il suo areale storico, peraltro, dove stava al suo tempo, quindi sta su tutto l'Appennino, grandi parti anche delle zone collinari come in Maremma, in Toscana, ma anche arrivato giù nel Salento, quindi tutto l'altopiano delle Murge e così via, insomma. E poi ha riguadagnato buona parte delle Alpi e sta, anzi, questo processo non è ancora terminato, perché questa ricolonizzazione è ancora in atto e sta tornando praticamente su tutto il suo areale storico. Però ci sono anche avvistamenti in pianura padana, Cremona per esempio, sul vicino al Po. E il lupo è un animale che si sposta su grandissime distanze, per esempio, a parte che un territorio di un branco è di 200-300-400 chilometri quadrati, questo tanto per cominciare. Poi i giovani dell'anno, quando hanno verso un anno e mezzo, diciamo così, lasciano il branco in cui sono nati e vanno a colonizzare nuove aree, alla ricerca di nuovi territori e nuovi partner. Mm-hmm. E in questi spostamenti il lupo fa anche 1000 chilometri, 1000-1500 chilometri. E ha una capacità riproduttiva molto, molto buona? È anche alta, sicuramente, perché in un branco, cioè il branco poi essenzialmente è una coppia con i suoi cuccioli dell'anno o qualcuno dell'anno precedente. Ecco, una coppia può fare anche 7, 8, 10 cuccioli, non tutti sopravvivono quando sono 10, però diciamo che una cucciolata di 4, 5, 6 potrebbe essere anche normale. Certo. Quindi c'è anche un'alta mortalità, per cui non è che questa popolazione cresce all'infinito, anche perché c'è una questione di disponibilità alimentare, di tante cose, così, per cui... No, ma è chiaro, questa è la situazione. Ovviamente il dibattito, perché ci sono molti allevatori che si lamentano. Ecco, una cosa che diceva Messner nell'intervista, secondo me, è condivisibile: è vogliamo uscire per una volta dalla diatriba animalisti da una parte a dire l'animale non si può toccare. Tra l'altro, il lupo è specie protetta, e dall'altra parte allevatori che dicono: ma venite a vedere le mie pecore. Cioè, perché se usciamo da queste posizioni, che viste dall'uno dall'altra parte, portano a uno scontro ideologico e non facciamo un passo in avanti, come la risolviamo? Una sana convivenza nel rispetto della natura e anche delle attività produttive, però. Non potrei non essere più d'accordo con Messner. Tutta la vita che faccio questo mestiere, cercando di far ragionare la gente che sugli estremi non ci si troverà mai d'accordo. Mentre una via di mezzo esiste, una via di mezzo si chiama compromesso, che è una parola molto banale che noi tutti facciamo 10 volte al giorno in chissà quante altre contesti. Il compromesso significa cedere un po' da una parte e un po' dall'altra, cioè qualche lupo verrà rimosso ogni tanto dove ci sono dei problemi eccessivi e qualche pecora verrà aperta. Rimosso questo cosa significa, no, per capire tecnicamente? Rimosso vuol dire anche abbattuto, professor. Abbattuto. Abbattuto, non c'è altro modo, non è che uno lo cattura e poi dice lo mette da un'altra parte. Non esiste un sindaco d'Italia che dica no, prego, il lupo mettetelo qui, cioè questo è semplice follia. Metterlo in gabbia in uno zoo, in un recinto, non ha nessun senso. E quindi sicuramente qualche animale andrà abbattuto in qualche situazione estrema, ripeto, perché questo è il modo con cui l'Italia ha salvato i lupi rispetto a tutto il resto d'Europa. Certo. Cioè, in Abruzzo, che è l'area in cui il lupo non si è mai estinto del tutto, questo era il modo con cui si conviveva. Il pastore reagiva quando c'aveva troppe pecore morte durante l'anno, ma se ne perdeva una, due, tre, cinque, ma è come la malattia, non fa niente. Poi, se il lupo veniva troppo vicino, rispondeva, gli do una bastonata in testa. Cioè, c'è una convivenza senza paura uno dell'altro, però con qualche limitazione da una parte e dall'altra. Se non si accetta questo, non si risolve. Certo, se uno dice, adesso li sentirò già gli animalisti, anche solo toccare un lupo, e vabbè, allora rimaniamo così, allora non ne usciremo mai. Gli allevatori lamenteranno e si, dico questa parola, armeranno e se la vedranno in maniera, come dire... Ma è come avviene già ora, Già adesso c'è un bracconaggio diffuso che è... che però non è un bracconaggio andiamo a caccia del lupo, chi vuole, è un bracconaggio di difesa. Quando si supera un certo limite si fa c'è una reazione che riporta la situazione a un equilibrio, tutto in maniera illegale, che è inaccettabile. Tutto questo dovrebbe in un paese civile essere invece fatto alla luce del sole, razionalmente, sulla base di un piano, come forse dice Messner, su quale io sono d'accordissimo. Su questo devo dire che prego Leonardo. No, lei diceva prima che i lupi tendono a formare famiglie stabili, di fatto sono dei piccoli gruppi, quindi non si riuniscono mai in grandi branchi che vanno a creare problemi, quindi di fatto quelli che creano problemi sono sempre numericamente limitati. Beh, un branco di, non so, 8 lupi può fare un bel po' di danno. Se uno lascia le pecore brade in un pascolo senza guardiania, senza controllo, beh, il lupo se le mangia, se le ammazza tutte quante. Perché sono un branco, ma della stessa famiglia, giusto per dire in termini umani? Ecco. Sono la stessa famiglia. Sono la stessa famiglia, cioè madre, padre... Il problema nasce dal fatto che le pecore sono animali artificiali fatti dall'uomo per produrre latte, carne e così via. Non sono animali selvatici, il lupo non stermina mai una popolazione di cervi, di caprioli, di cinghiali, perché? Perché c'è un equilibrio che si è evoluto nel tempo, per cui questi animali hanno delle loro capacità di difesa, si disperdono, così via. Il lupo la pecora sta lì ferma, ma l'uomo l'ha selezionata per star lì, sennò dovremmo correre appresso alle pecore per tutti i pascoli di tutta l'Europa. Invece la pecora sta lì e questo star lì provoca proprio il comportamento di attacco da parte del lupo, il quale sta in una trappola comportamentale, non può fare a meno di attaccarlo e di ammazzarlo. A volte vediamo che si ammazzano, ma io l'ho visto con i miei occhi, 300 pecore una volta in Abruzzo, ammazzati da 2 lupi in mezz'ora, 300 pecore, poi che hanno mangiato 2 chili, forse 3 chili di carne. Certo, perché cioè il lupo quindi aggredisce, anche uccide, non solo per mangiare, ma perché è l'istinto di dire la devo ammazzare la pecora. È un modello di comportamento su cui non può fare a meno, ed è una trappola per lui, perché ha perso un sacco di tempo, di energie, e poi non le riesce nemmeno a sfruttare. Questo lo dobbiamo evitare, chiaramente. Professor Boitani, noi la ringraziamo perché ci ha dato in pochi minuti di radio, secondo me, delle tantissimi consigli, anche nozioni. Sapevi, Leonardo, che la pecora... è lì, è stata creata per stare lì, povera pecora. Adesso mi viene una tenerezza infinita, e sono animali tenerissimi peraltro, e non si difendono neanche, vanno incontro al loro destino. Soprattutto non sapevo che i lupi fossero fedeli e creassero delle famiglie stabili. Invece Leonardo, come ci ha spiegato il professor Boitani, sembra proprio che i lupi siano fedeli, sicuramente più di noi umani. Adesso ci fermiamo, c'è il giornale radio e rientriamo subito dopo per la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa. La gente, se ha a disposizione 1 giga, lo usa tutto. Se ne ha 2, lo usa tutto. E già non bastano. Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi. Vedremo una trasformazione in 5 anni che secondo me ad oggi il cittadino comune non può immaginare. Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio. Uno, nessuno, 100.000. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You got the love. Eccoci, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, caro Leonardo. Adesso ci spostiamo a Rimini, dove troviamo la presidente degli albergatori, Patrizia Rinaldis. Buongiorno Rinaldis. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo letto questa notizia che un po' ci ha inquietato, nel senso che un milanese, credo, in un post sui social, i social fanno dei danni terribili a volte, ha definito il mare di Rimini... come dire, un mare di M puntini, potete immaginare voi. È stato denunciato? Sì. Senta come gode la Rinaldi, se è stato denunciato e avete vinto. Sì, non bisognerebbe mai arrivare a regolamentare o a denunciare per diffamazione. Sì. Dovrebbe invece intervenire il buon senso di ognuno, dove, perché io lo sto continuando a dire, sì, la libertà di pensiero, di comunicazione, ma quando eccede nella diffamazione, perché non è un problema del mare di merda, che no, mi scusi il termine. No, vabbè, ma è quello che ha detto. Ma molto più pesante sono state poi le altre affermazioni. Dovete morire, siete dei porci, siete... Ah, ecco, insomma, beh, quindi non ci siamo fermati a un discorso veramente soltanto di tela del mare, ma tutela proprio di una città. Sì. Cioè, anche perché è intervenuto nel momento dove, dopo forti piogge, erano state aperte le paratie, tutto era entrato nella normalità, anzi nel frattempo ci eravamo anche attivati con la regione perché cambiassero, comunque non si fanno i prelievi durante la chiusura, ma lasciamo stare il tutto. Sono intervenuti questi dicendo veramente cose molto pesanti. Cioè, sì, ripeto, quindi proprio ha infamato e ha diffamato la città. Voi, porci, arafoni, volete lavorare 3 mesi all'anno e state bene tutto l'anno, fannulloni. Cioè, una città che vive di turismo, una città che è una di quelle che negli ultimi anni ha cambiato completamente. L'unica a livello italiano che ha adottato il piano della balneazione, non c'è un'altra città in Italia. Sì. Allora lì io mi sono sentita, ci siamo sentiti, cioè di difendere proprio i nostri operatori turistici, ma non solo gli alberghi, c'è una città che vive di turismo. Il marchio Rimini. No, ma certo, però c'è da dire una cosa, è che è di prima, cioè è un peccato arrivare alla diffamazione. È un peccato, ma infatti io da giorni parlo di tema di libertà, però la libertà della parola, del pensiero, come qualcuno cita, va anche usata. Cioè ci sono anche dei limiti, effettivamente. Dire mare di M, uno ma poi dice, vabbè, pazienza, è un giudizio, pazienza, è un giudizio. È un giudizio. Ma puoi entrare pesantemente, guardi, poi dopo vanno dietro tutti i cretini, perché uno mi scrive e mi dice, io non vengo più perché siete stalinisti, non c'è libertà di pensiero. Ma ci mancherebbe lei, altro. Lei è stalinista? Cioè, un po' di comunisti a Rimini si trovano, ecco. stalinisti direi di no. Però ha capito, dopodiché forse tutti dovremmo comprendere che sta nel buon senso della singola persona non arrivare a questo. Cioè, i social sono uno strumento importantissimo, ma va utilizzato correttamente. E come sulle reputazioni, ogni critica, ogni giudizio può diventare positivo, può essere un trasformato, sì, può, uno essere stimolo, un input, può essere uno stimolo. È uno stimolo, ma fatto in questo modo dovete morire, porci arraffoni, cioè. Dove l'ha scritto? Sui social? Cos'è? Un Facebook? Uno qualsiasi? L'ha scritto, sì, ma dopo lei sa benissimo che le notizie, era su una rivista online, le notizie negative fanno poi il giro dell'Italia fondamentalmente. Se lei scrive una cosa normale, sì, non mi piace, questo male, perché è, non la riguarda nessuno. Toni di questo tipo hanno attirato l'attenzione tutti gli stupidi che ci sono poi andati dietro. Sì. Ma a cosa è stato condannato questa persona? Cioè, ma in realtà è stato condannato a una multa? 3 mesi di reclusione. Ah, che 3 mesi? Convertiti però in una multa. Beh, ho capito, però rimangono segnati. Sulla fedina penale, ecco. Tre mesi di carcere. Io comunque ho detto, ma ho anche tranquillizzato, perché io poi questa persona l'ho sentita, il mio intento non è di chiedere danni, non è niente, ma è soltanto un monito, ma soprattutto un invito a utilizzare in maniera diversa lo strumento dei social, perché è un insegnamento anche, dicevo, per le generazioni più giovani. Se persone adulte si permettono di scrivere determinate cose così offensive, così diffamatorie, poi un ragazzo si sente legittimato a fare qualsiasi cosa. No, ma su questo sì, siccome so che lei è una donna di spirito, mi permetta di concludere con, insomma, ne avete colpito uno per educarne 100, così Mao Zedong. Certo, è così. Non potevo dirlo. Scherzo, no, in realtà il ruolo della responsabilità di quando uno si mette davanti a una tastiera è importante, e ne abbiamo parlato varie volte anche con l'avvocato Marisa Marafino. Insomma, non è che uno può scrivere esattamente sempre tutto quello che vuole, rischia di incorrere nel reato di diffamazione. In questo a lei, caso, chiedo alla signora, non le è venuta voglia di rispondere a sua volta insultandolo pesantemente con delle parolacce sul Manera social? Farebbe così, Manera proprio, cioè Manera no, è a brigante e mezzo, e quindi a lei. Avanti. In realtà l'ho confortato, lui e la sua famiglia, ma il prossimo invece, che... Come adesso, come dicevo, cioè vanno sempre in coppia le persone, sì. Lo stanno continuando, adesso comincia invece pesantemente. Esatto, così a questo punto chi scrive insulti sui social sa a quale rischio va incontro. Noi ringraziamo di nuovo Patrizia Rinaldi, se ci fermiamo ci sono le informazioni sul traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Only love can make it rain the way the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain like the sweat of lovers laying in the field. Eccoci a Uno Nessuno 100 Milan. Leonardo, dobbiamo ora parlare di adolescenti e social, un tema che noi genitori viviamo quotidianamente, anche se c'è da dire che tu non sei, caro Leonardo, il papà di Anastasia Radzinskaya, che a 6 anni fattura 18 milioni di dollari, soldi che evidentemente si tengono i genitori. Oppure non sei neanche il papà di Ryan Kaji, che a 8 anni è specializzato in unboxing, ovvero scartare regali mentre viene ripreso dai genitori su YouTube. Pensa che nel 2019 Ryan, grazie ai suoi 27,3 milioni di follower, ha guadagnato la bellezza di 23 milioni di dollari. Ma ci sono dalla Corea all'Ucraina, insomma, bambini star di YouTube, star mondiali. Allora, noi abbiamo convocato Alberto Rossetti, torna con noi, psicologo, ha scritto anche un libro, Tutti a casa, amici, scuola, famiglia, cosa ci ha insegnato lockdown, edito da Feltrinelli. E intanto ci ha insegnato che sono ancora più rinchiusi nel mondo social, se ho capito bene, sti ragazzi, no? Questo è sicuramente una conseguenza di questa chiusura in casa, perché poi non potendo tanto uscire, chiaramente... gli schermi e le nuove tecnologie, compreso anche la scuola, diventano un punto centrale, attorno a cui ruota la giornata. Certo. Noi guardiamo questa notizia, cioè i bambini star di YouTube fatturano milioni di dollari, ovviamente inconsapevolmente, non hanno certo scelto a 4 anni, 3 anni di diventare star mondiali. Cosa dovremmo dire di questi genitori? Sono stati scaltri, furbi, intelligenti? Sono dei senza scrupoli che hanno sfruttato l'immagine dei loro figli? Cosa dire? Su questi genitori insomma, faccio fatica a esprimermi. Sicuramente il tema degli youtuber bambini non può fare a meno di incontrare questa critica, no? Cioè il fatto che poi alla fine... si parla immediatamente di fatturato e di milioni di dollari e del fatto che in qualche modo tramite, perché di questo un po' si tratta, tramite un bambino la famiglia in qualche modo va a arricchirsi, no? Va a acquisire popolarità. Certo. Non è così ovunque, perché poi bisogna aver capito che ci sono alcuni stati come la Francia, ne parla forse proprio Riccardo Luna, che sta tentando di regolarizzare tutto questo, no? Perché, ma come? Cioè vietare? Perché lo sappiamo, no? Un canale YouTube se non hai 14 anni non lo puoi fare, ma chiaramente sarà il canale dei genitori. Sì, cioè, ci sono, diciamo, l'età fa ancora la differenza, perché è chiaro che 4 anni non sono i 10 anni e non sono neanche i 13 anni, che è poco prima dei 14. Chiaramente prima dei 14 è il genitore che deve metterci la faccia e quindi deve aprire l'account. Però occorre chiedersi innanzitutto il perché, no? Nel caso sia il bambino a chiederlo, perché c'è questo bisogno, no? Di andare in rete, di andare su YouTube, di esporsi di fronte a una platea vasta, no? Perché poi la maggioranza di questi canali, diciamolo, racimolano pochi iscritti, no? Il bambino apre il suo canale, c'ha 8 iscritti e in qualche modo non succede nulla. Ma qual è la spinta? È una spinta alla popolarità? È una spinta ad avere soldi? È una spinta in qualche modo a voler far ascoltare la propria voce, il proprio, a far vedere il proprio modo di giocare agli altri? Sono tutte domande che bisogna farsi, no? Sa, secondo me, io lo dico da esperienza, forse da genitore, non so Leonardo cosa ne pensi, ormai siamo in un mondo in cui l'amicizia si fa attraverso questo strumento che è lo smartphone che c'è in mano, non sempre così, non è sempre che non sto dicendo delle frasi, come dire, indiscutibili e scolpite nel granito, però molto spesso l'amicizia passa, è un'amicizia virtuale che passa attraverso questo, e quindi li senti i ragazzi dire lui c'ha 100 like, lui ne ha 200, questo ha 1 milione di visualizzazioni, come a dire, quindi è più figo. È figo, sì, secondo me la spinta è quella, l'acquisizione appunto della popolarità e quindi il legittimarsi anche agli occhi degli altri amici, degli altri ragazzi. Cioè, me lo chiede mio figlio, ma tu su Facebook quanti follower hai? E dico, ma non importa, non è quello che conta. Cioè, però, Rossetti, è chiaro che i ragazzini misurano anche un po' così, no? Sì, sì, sì, beh, è sicuro che c'è un confrontarsi con la popolarità, con i like, con la quantità, no? I social network, compreso YouTube, giocano molto sulla quantità. Però appunto un conto è se tutto questo avviene in adolescenza o in preadolescenza, in cui momento in cui c'è un rapporto col gruppo anche differente, un altro è quando tutto questo avviene con bambini più piccoli. Esatto. E allora secondo me bisogna chiedersi il perché dobbiamo in qualche modo dare l'ok o portare i bambini a esporsi con una realtà così vasta e anche con un qualche cosa di molto faticoso, perché qua parliamo di like, cioè di piacere, di approvazione. E poi c'è un altro aspetto che secondo me non è da sottovalutare, ed è che al di là della rete, poi il bambino va a scuola, il bambino incontra i suoi compagni, sì, e quindi gli haters, i famosi haters di cui tutti parlano, sì, va bene, sono su internet, ma il vero problema è quando poi il bambino va a scuola e viene magari preso in giro per qualche cosa che ha detto o fatto il giorno prima su YouTube senza esserne realmente consapevole. E questo realmente consapevole secondo me è un tema che dovrebbe alzare molto l'attenzione da parte. Sì, questo il tema c'è effettivamente. Un genitore che nel Texas deciso di far diventare una star Ryan Kaji, ma cito lui perché è uno dei più famosi, proprio famoso perché scarta i regali da quando ha 3 anni, 4 anni. Adesso i genitori fatturano milioni di dollari. Però effettivamente, caro Rossetti, hanno usato il figlio inconsapevolmente, che certamente non ha scelto di farlo, e l'hanno reso una star, una celebrity. Che cosa si può dire però? Cioè, però dall'altro canto adesso hanno sistemato la famiglia del figlio e forse per chissà quale generazione dal punto di vista economico, perché è un dato di fatto, non lo sto giudicando né positivamente né negativamente, il dato di fatto è questo. Quindi, torno alla domanda iniziale, bisogna dire che sono stati senza scrupoli o previdenti, hanno capito dove va. Hanno provato questa cosa e gli è andata bene sicuramente. Questo è un po' il tema che c'era già negli anni passati con i bambini che diventavano famosi in televisione, nelle pubblicità, sì, piuttosto che, quindi torniamo lì, no? O i bambini nei cinema, le star di Hollywood. Ma certamente, ce ne sono alcuni che vanno in quella direzione, però qua il problema secondo me non è quell'alcuni, perché poi quell'alcuni potranno avere comunque delle problematicità legate a questa esposizione così precoce. E insomma la storia è piena anche di ragazzini che poi diventati grandi hanno fatto fatica a gestire la popolarità. Per prima ancora di YouTube. Però qua il tema è, secondo me, qualche cosa di più diffuso, che non riguarda quei singoli, ma riguardano tutti quei genitori che in qualche modo non avranno la fortuna, ecco, di avere un figlio che fattura i milioni di dollari, ma che invece dovranno confrontarsi magari con quei 10 iscritti al canale, che però, anche se sono solo 10, possono dare un problema. Sì. Perché poi magari quel bambino ci rimane male. Sì, diventa il frustrato, anche perché per uno che fa fattura milioni, chissà quanti centinaia di migliaia ci provano e falliscono. Ecco, e poi... perché dare queste frustrazioni, no? In un ambiente, tra l'altro, dove è così difficile poi confrontarsi con l'altro, perché poi è una frustrazione molto particolare quello che passa dalla rete, perché un conto è la frustrazione che noi incontriamo di persona, no? Nel momento in cui c'è un adulto che in qualche modo col quale possiamo confrontarci, col quale possiamo, un adulto, un altro bambino, insomma, nel gruppo dei pari, ma sulla rete questa cosa avviene tutta dentro di sé e questa cosa è molto complicata da gestire. È molto complicata. Noi Alberto Rossetti la ringraziamo, ripeto, potete leggere anche il libro Tutti a casa, amici, scuola, famiglia, cosa ci ha insegnato il lockdown, di Alberto Rossetti, che ci ha raccontato anche altre cose. Davvero mi colpisce, non so, tu hai un giudizio negativo, Leonardo, sul genitore che ha reso star, che ne so, Eva Diana, 42 miliardi di visualizzazione a 6 anni? Probabilmente io immagino che sia una cosa nata per caso, cioè un giorno hanno messo un video del figlio, hanno visto che in tanti lo guardavano e allora hanno pensato, ma perché non provare? Però a quel punto prendi una decisione, cioè decidi di renderla una star. Ma davanti alle banconote fruscianti che si accumulavano, tu che decisione avresti preso davanti a queste banconote fruscianti? No. La cosa che a me preoccupa di più è vedere che andiamo sempre di più verso una società dove c'è competizione su tutto, dai talent al cucinare. Cioè la competizione sul cucinare in tutti i talent, e poi già fin da quando si è bambini, non so se questo è utile per crescere bene. Non lo so, effettivamente si compete su tutto si compete, Carles. Anche tu, solo che tu perdi. Io perdo, quindi la soluzione qual è? Rinuncia, Leonardo, la soluzione è sempre quella, rinuncia, dai. Andiamo a sentire le informazioni sulla borsa, rientriamo subito dopo. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccoci a Uno, Nessuno, 100 Milan. Leonardo, fammi salutare subito Pier Mauro Rebulas, che è presidente del Club Alpino Italiano Val d'Aosta. Buongiorno Rebulas, grazie di essere qui. Buongiorno, perché incredibilmente sembriamo ripiombati in una storia che in realtà dura da 150 anni per capire di chi sia il Monte Bianco, la brutalizzo così, di chi è il Monte Bianco, perché i francesi rivendicano sulla sommità e su alcuni ghiacciai una loro proprietà, proprio una loro proprietà fisica e geografica. Ci risiamo. Pier Mauro, da quanto dura questa vicenda? La vicenda risale, ne hanno già parlato con Napoleone Bonaparte a fine del 1700, c'erano già dei trattati in tal senso. Sì. Ma di primo acchito mi verrebbe da dire che il Monte Bianco è solo suo, è solo il Monte Bianco. Esatto. Se ne importa abbastanza poco di quello che noi possiamo pensare o fare nei confronti dei confini soprattutto. o è di tutti, si potrebbe dire, della terra, cioè o è di tutti e di nessuno, sì. Di tutti e di nessuno, ecco. Sì, assolutamente, questo è un dato di fatto, siamo abbastanza marginali in un contesto del genere. Certo che, diciamo, un po' una notizia, per citare una montagna che è un po' all'estremo oriente dell'Italia, è un po' un fenomeno carsico, diciamo, ogni tanto riaffiora, poi si inabissa nuovamente. Sì, sì, ma Pier Mauro De Bulas, mi faccia salutare, le presento un grande amico di Radio 24 e grande alpinista, Simone Moro. Buongiorno Simone, ben ritrovato. Buongiorno anche ai tuoi ospiti. Ma tu il Monte Bianco, quante volte l'hai scalato, l'hai affrontato? L'ho salito un bel po' di volte, sia dai versanti italiano che dal versante francese, l'ho anche sorvolato. Insomma, il Monte Bianco è un'icona europea ed è l'Everest dell'Europa. È vero che in maniera quasi provocatoria, e son d'accordo con quello che avete detto fino adesso, insomma, il Monte Bianco è del Monte Bianco. Però bisogna anche fare i conti che un conto è una considerazione naturale, un conto è una considerazione amministrativa, logistica, di regolamento, di responsabilità, e quelli purtroppo della filosofia se ne fregano, e bisogna arrivare a guardarsi in faccia e decidere come gestire amministrativamente, logisticamente, umanamente, economicamente, anche per i soccorsi, questo pezzo che è di tutti e che è di se stesso. E che per i francesi è loro, nel senso che emettono delle ordinanze includendo parti di territorio italiano. Guarda, veramente, è talmente così chiaro che basterebbe poco mettersi d'accordo se si volesse mettersi d'accordo. Che il problema è che noi adesso stiamo parlando di una trasmissione radiofonica. Siamo il contenitore di questi minuti e poi ovviamente abbiamo altre priorità adesso, e lo sappiamo tutti quali sono. Però non dovremmo delegare a un dibattimento radiofonico, ma bisognerebbe sedersi e parlarne nelle giuste sedi. E un tavolo è stato aperto, tra l'altro, da un bandostano, da Craveri, nel 1996 all'Europarlamento, ok? E c'è la volontà di mettersi d'accordo. Però è chiaro che se noi rivendichiamo un pezzo, ma lo rivendichiamo solo 5 minuti l'anno in una trasmissione radiofonica, non è che l'altro ci viene a dire: oh, dobbiamo darvi questo pezzettino. No, sono azioni diplomatiche. Ma su questo è intervenuta anche la Farnesina, ma per Mauro De Bulas questa storia la conosce bene, no? È vero, c'è questo tavolo aperto. Le dico anche due considerazioni che sono arrivate dagli ascoltatori. De Bulas, uno ha scritto: guardate che Google Earth, cioè questa applicazione, indica il Monte Bianco in territorio francese, e quindi bisogna fare la battaglia anche su questo. E secondo, uno scrive: i francesi hanno messo i tornelli sul Monte Bianco. Ci aiuti a capire, De Bulas? Sì, ma sono due aspetti simili che si legano. A un certo punto i francesi, sempre per il discorso che diceva giustamente Simone di responsabilità e altro, erano giunti con la gendarmeria a porre un cancelletto all'uscita del rifugio Torino verso la parte del ghiacciaio, per dire che quello è territorio, quindi se passate lì vi controlliamo perché entrate nel nostro territorio. Infatti poi bisognerebbe sempre dire: il Monte Bianco è un massiccio molto ampio, diciamo, tendenzialmente loro rivendicano la vetta, per cui proprio anche l'aspetto della cima, un aspetto come si può dire più di impatto, e poi la zona ad esempio della Punta Elbrunner, dove arriva la Skyway, ma arriva contemporaneamente nelle vicinanze anche la funivia dei ghiacciai che sale da Chamonix, ed è un po' un problema tecnico, giuridico, ma anche un pochino commerciale. Però qui, se si parla di vette, allora, Simone Moro, la questione cambia. Uno che le vette le conosce abbastanza bene, Simone, qui la questione delle vette allora diventa più simbolica. Alessandro, provocatoriamente, se noi facessimo lo stesso ragionamento, tipo l'Everest è di tutti, tu immagina se il Nepal va dalla Cina o viceversa e dice: guarda, la vetta è tutta mia, ti do un'anticima più bassa, ti garantisco che sia il Nepal, che è l'ultimo dei paesi, scoppia la guerra. Guarda, è un casino. Io ti dico solo una cosa, che di questa vicenda, che io dico è molto chiara perché ha delle fasi storiche, tutto nasce, ed è importante dirlo, che quando è stato fatto il trattato di Cherasco, poi superato da altri trattati firmati, che i francesi dicono di aver perso, e noi gli diciamo, guarda che noi le abbiamo vi la diamo copia, la copia, vi forniamo la fotocopia, se volete. No, firmata da Napoleone III. Autenticata, certo. Sì. Quindi tu capisci che tutto è nato perché nel 1796 loro hanno detto le creste militari, le ret militaire, è tutto in questa frase. Quando è stato fatto questo trattato, una cresta militare, giusto per farti capire, per il termine cresta militare non è più uno spartiacque, ma è il punto sulla cresta dove io riesco a vedere giù dall'altra parte, cioè il nemico. Sì. Nasce da questa frase il fatto che loro hanno detto c'è il Mont Blanc de Courmayeur e il Monte Bianco vero e proprio. Il problema è che poi nei trattati successivi, ma addirittura anche in corrispondenze tra Napoleone III e il conte Francesco Arese, lì si scrivono, no, dobbiamo tornare, c'è scritto nero su bianco. E questa lettera loro ce l'hanno i francesi, si sono dimenticati di averla aperta. C'è scritto che torniamo al limite amministrativo, cioè che passa attraverso la cresta. Quindi veramente ci sono anche tutti i documenti. È tutto chiaro, però non riusciamo a farci, tra virgolette, rispettare diplomaticamente. Il carisma e il pugno, il peso politico italiano è un po' evaporato. Un po' evaporato. È un po' evaporato, mettiamola così. No, ma Rebulas, ma la gente che sale nella funivia, eccetera, è come percepisce questa questione, oppure stiamo facendo una questione che non è così importante? Diciamo che le montagne sono belle di loro, uno ci va sicuramente non per andare su un territorio di uno rispetto all'altro. Chiaramente per chi lavora in questo contesto, tipo le guide, ogni tanto c'è stato qualche piccola incomprensione, ma non tra le guide chiaramente transfrontaliere, ma proprio questo aspetto di dire ci sono posti dei limiti anche in zone dove tendenzialmente da quel punto di vista, sì, limiti intesi proprio amministrativi che hanno poca ragione di essere, ecco, sì. O meglio, ce n'hanno da un punto di vista di sicurezza o altro, però chi sale non credo che si ponga questo problema, sì, in maniera così. Vorrei concludere e capire da Simone Moro come si vive in questo momento di paralisi, la sappiamo, per il Covid, la pandemia. Sì. Che fai? Guarda, un alpinista indipendentemente dal suo livello tecnico è abituato all'attesa, sì. E non fa tanti assembramenti. Guarda, io da un punto di vista sociale non mi cambia niente, non sarei comunque in giro dopo le 23 e non faccio assembramenti. No, okay. Vabbè, ma avrai dei progetti, avrai dei sogni che in questo momento sono fermi. Assolutamente sì, sto guardando come si evolve la situazione nel mondo. È chiaro che mi tengo allenato, ho anche i miei piani B e C, e quindi magari posso anche pensare che siano le Alpi le protagoniste del prossimo inverno. Spero comunque che il Monte Bianco, noi continuiamo a chiamarlo Monte Bianco e non Mont Blanc. È il Mont Blanc, e io gli rispondo il Monte Bianco. È giusto. Quello Mont Blanc va bene per una bella penna, per il resto teniamo. Perché per la Francia è così importante rivendicare questa proprietà? Non lo so, infatti, Rebulas, perché è così determinante? Ma non lo so, diciamo i francesi hanno un po' questo aspetto nazionalistico. Per fare così una piccola, se mi è concessa una battuta, probabilmente gli roda ancora il fatto che nessuno di loro lo dirà, che è vero che i primi salitori della cima nel 1786 erano Balmat e Paccard, però erano sudditi del Regno di Sardegna, di conseguenza non sono stati francesi ad arrivare per primi sul Monte Bianco, se vogliamo mettere una bandierina così. Se vogliamo essere nazionalisti tanto quanto loro. Esattamente, così, giusto per ricordarglielo, insieme al trattato che hanno firmato e che hanno perso, giusto per ricordarglielo. Vabbè. Dai, ci fermiamo qui, salutiamo Pier Mauro Rebulas, presidente del CAI Val d'Aosta, grazie di essere stato ai nostri microfoni, e salutiamo anche il grande Simone Moro. Andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Rieccoci cari ascoltatori, l'ultima parte di Uno Nessuno 100 Milan. Sapete che io e Leonardo Manera, nonostante siamo degli abusivi della lingua italiana, siamo affascinati dal linguaggio che cambia. Per questo voglio presentarvi un linguista e filologo molto famoso, Luca Serianni. Buongiorno e grazie di essere qui. Grazie a voi. Insieme a Maurizio Trifone è l'autore del nuovo Devoto Oli. Chi non ha in casa, chi non ha mai studiato, sapere il celebre Devoto Oli, vocabolario. E, perché la lingua cambia, e questo, professor Serianni, l'abbiamo detto in mille salse, no? La lingua è in continua evoluzione, non è mai un qualcosa di statico, giusto? Sì, ovviamente. E come cambia? Cambia con nuovi termini, ma la curiosità intanto è questa: entrano dei termini, ma ci sono anche termini che escono dai vocabolari perché sono desueti, oppure no, quelli che ci sono? Sì, naturalmente è un dare e avere che è legato anche allo stato della lingua, per cui non si conservano tutte le parole del periodo più antico, ma alcune escono sia a più banali gestioni dello spazio. Ed è quello che è accaduto anche nel Devoto Oli, nell'ultima edizione, in cui sono entrate, nella parte elettronica almeno, delle parole molto recenti, per esempio algocrazia, parola scherzosa, almeno originariamente, che indica il dominio degli algoritmi. Algocrazia, bello. Algocrazia, bello. Poi vedremo se questa parola reggerà oppure no. Sono in fondo inserimenti in prova, ed è entrata, come era abbastanza prevedibile, lockdown. Poi però ci sono altre parole che sono uscite, per esempio accorazione, ma tutti diciamo quando dobbiamo dirlo accoramento. Accorazione era una variante qualche volta attestata in epoca antica e poi conservata un po' per inerzia. Oppure mascheraio, fabbricante di maschere, anche questo non esiste. A proposito di maschera, beh, la mascherina per noi non è quella che ci fa venire in mente il carnevale, ma ovviamente il sussidio sanitario. Ecco, il cambiamento della lingua si riferisce in parte notevole non a parole nuove che non esistevano prima, ma a parole che esistevano già e che assumono significati diversi. Quindi mascheraio, ci sono alcune parole anche che sono entrate, per esempio leggo alcune ciaone, ci sono dei termini che magari uno non si aspetterebbe di vedere in un vocabolario, invece ci sono. Dunque, ciaone appunto se ne è parlato molto nelle cronache politiche, però anche per ciaone non è affatto detto che regga nelle successive edizioni. Sono insomma parole, diciamo pure, che sono sotto esame, cioè sembrato che avessero un sufficiente grado di diffusione per entrare, però non è detto che resistano. Possiamo dire che nelle prossime edizioni di questo e di altri dizionari, piatto, bicchiere, tovaglia continueranno a vigoreggiare. Ciaone non ci scommetterei. Ciaone si potrebbe. È bello se si mettono lì in prova, ovviamente nella versione telematica, ma che poi chi decide, come si decide se questa prova sarà superata oppure no? La decisione non può che essere frutto di una valutazione artigianale. Il dizionario è ancora oggi in gran parte una operazione di buon artigianato in cui i lessicografi soppesano le varie possibilità che ha una parola di affermarsi e poi decidono. Quindi il margine di opinabilità è naturalmente forte. L'alternativa sarebbe quella di verificare quanto una parola circola attraverso le liste di frequenza, però anche questo sarebbe discutibile, perché ci sono dei momenti in cui per esempio per ciaone i giornali non facevano altro che riprendere questa battuta. È vero. E poi è chiaro che bisogna vedere se riesce a fermarsi oltre questa breve stagione. No, professor Serianni, poi c'è una parola che ha incuriosito tutti quanti, Leo, poi ti faccio fare la domanda, che è questa cisgender, no? Cisgender ce la deve spiegare. Certo. Allora, cisgender indica l'identità di genere che coincide col sesso attribuito alla nascita, quindi maschio o femmina. Verrebbe da dire, beh, ma che parola è? Si capisce che questa è la condizione tipica, diciamo pure normale, della gran parte degli individui. Ecco, però nel momento in cui l'identità sessuale, cioè senso di appartenenza che ciascun individuo sente di essere maschio o femmina, o più maschio o più femmina, è messa in discussione, serve una parola che indica questa condizione. Sì. Come gli intuizionisti medici parlano di un individuo normopeso, cioè di un individuo che non è né grasso né obeso né magro, né grasso né magro. E normopeso indica la condizione che non dico sia quella abituale, perché ci sono spesso persone che sono al di sopra del peso standard, però insomma serviva una parola che indicasse questa condizione. D'altra parte non è una parola, inutile forse dirlo, che abbiamo creato noi. Noi ci siamo, diciamo, abbiamo tenuto conto dell'uso, in questo caso, sì, soprattutto sì, sì, di sociologi che usano appunto questa parola, e quindi ci è sembrata degna di essere accolta. Introdotta. Leonardo. Questo, ripeto, non implica un giudizio nostro. Ecco, no, è chiaro, ci mancherebbe. Le parole che un dizionario accoglie con l'atteggiamento ideologico dei compilatori, che può essere più vario. No, è chiaro, che viene messo da parte. Quindi, che prego, Leo. Il dizionario della lingua italiana non accoglie parole esclusivamente italiane, ma parole in uso in Italia, questa è la logica, tipo lockdown, che è una parola chiaramente inglese. E io vedo che mio figlio utilizza molte parole di derivazione inglese, per esempio skippare. Vabbè, ma perché gioca, certo, laggare, skippare, camperare, perché fa i videogiochi. Però lo usa anche in altri ambiti, non solo del gioco ormai. Sì. Il lavoro... Si capisce che devono entrare nel vocabolario, questo in base al numero di persone che lo usano anche, ma ecco, questo mi incuriosisce, certi termini che vengono usati solo dai ragazzi giovani, che possibilità hanno di entrare poi in un vocabolario della lingua italiana? Questi sono termini che vanno sottoposti ad un particolare controllo, perché sono termini tipicamente transeunti. Il linguaggio giovanile è soggetto ad un rapidissimo cambiamento, per due ragioni: la prima addirittura banale, si è giovani per un periodo ridotto della vita; la seconda invece è un po' più significativa, il linguaggio giovanile è continuamente alla ricerca di espressività, quindi di ricorrere a parole che dicano qualche cosa in più rispetto alla lingua media, è un linguaggio ludico e anche carico di insulti. Allora è un linguaggio che va soggetto continuamente a cambiare, e quindi non bisogna fare l'errore che qualche volta da adulti o da anziani si fa, di attribuire al linguaggio giovanile parole che probabilmente non sono mai esistite. Negli anni 60 e 70 del secolo scorso una parola attribuita ai giovani era matusa, per indicare i genitori. Certo, ho il sospetto che questa parola i giovani veri dell'epoca non l'abbiano mai usata, era una specie di percezione degli adulti dell'epoca. Però, ripeto, la lingua dei giovani è difficile che entri nei dizionari, proprio perché è soggetta ad una trasformazione estremamente rapida. Professor Serianni, grazie di averci spiegato come si selezionano le nuove parole che entrano nel Devoto Oli. È stato un piacere davvero averla qui con noi. Leonardo, per questa puntata ci fermiamo. L'appuntamento è rinnovato a domattina alle 9. Voi restate su Radio 24. Nessuno, nessuno, nessuno.